allora, eccoci qui, siamo in contatto con colui che ha organizzato questo spettacolo, questo evento teatrale dentro il teatro del carcere di Rebibbia, qui di Roma, e lui è un volontario che salutiamo. Ciao Giancarlo, buongiorno. Ciao Salvatore, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e tutte, buonasera. Allora, ancora qui c'è il sole ancora. Dunque, vabbè, capisco che per esempio a quest'ora dentro il carcere già si cominciano a vedere le ombre lunghe. Allora, il problema, diamo un certo, il carcere è brutto, tante luogo di sofferenza, da annichilimento, però ogni tanto è possibile organizzare i detenuti che facciano uno spettacolo teatrale, ed è questo l'evento che stiamo raccontando, che anche tu ci racconterai, perché tu, oltre a fare il volontario a Rebibbia e quindi occuparti di tanti problemi che ci hanno i detenuti, anche appunto organizzi queste cose. Raccontaci allora. Intanto ti ringrazio dello spazio, della tua disponibilità, della disponibilità della radio, e come tu hai giustamente annunciato, sto organizzando questo spettacolo con i ragazzi detenuti, amici del reparto 9 di con è un laboratorio che parla quello che appunto stiamo a raccontare, insomma, più senti Giancarlo, si sente un po' disturbato, forse ti sento anch'io, adesso sta molto lontano Salvatore. Ok, adesso va meglio, però vai. Va meglio? Ok, sì, perché sì. Io sto a Napoli in questo momento, sto fermo in un cortile e spero che si prenda bene, però. E ti stavo dicendo, quindi insomma è inutile che raccontiamo la storia, perché tanto più o meno è una cosa divertente, è che naturalmente lo spettacolo lo mettono i ragazzi detenuti, che come forse tanto presuppone, non è anche. No, non si sente bene Giancarlo, vai via. Si sente bene? Adesso sì, però poi quando parlavi vai bene la voce. Vabbè, prova adesso, vai. No, scusate, non si sentiva. Ora vediamo se riusciremo a riprovare e a ritrovare la comunicazione. Intanto mandiamo un po' di musica. Abbiamo probabilmente ripristinato il contatto, speriamo che adesso si senta bene. Giancarlo, ci senti? Sì, io mi sento, mi sentivo anche prima, ma mi sento bene comunque. Anche adesso. Allora, eccoci. Stavo raccontando, appunto, stiamo mettendo in scena l'Otello, testo di Shakespeare, testo importantissimo di Shakespeare, che non ti raccontiamo perché insomma molti conoscono già la storia. La cosa importante da dire è che questo spettacolo è un spettacolo messo dai ragazzi stessi, dai detenuti stessi, dalle persone recluse stesse. Salvatore, sì. Come ben sai, perché abbiamo spesso chiacchierato, diciamo, privatamente, non solo, rispetto al rispetto alle questioni detentive, rispetto alla dignità delle persone recluse, eccetera. Questi laboratori, questi diciamo questi spettacoli rientrano, vogliono entrare proprio per rendere quel posto squallido, brutto, triste, sporco e tutto quello che possiamo dire di brutto infido rispetto appunto a questa realtà. Diciamo questi spettacoli, questi laboratori, questi progetti tendono a rendere la vita di queste persone migliori, diciamo, tendono a quella bruttissima parola della Costituzione italiana, a quella rieducazione prevista dalla Costituzione italiana, e che, come giustamente sottolineava Manconi qualche giorno fa, qualche settimana fa, sulle pagine del Manifesto, non solo, se questa rieducazione non c'è, tanto vale abolire l'articolo 27 della Costituzione. Quindi se vogliamo pensare a una rieducazione, a una vera rieducazione, bene, si deve passare anche da queste anche da questi progetti, che per la mia esperienza personale, per la mia esperienza che sto facendo da ormai qualche anno con i ragazzi del G9, non solo, beh, ti assicuro che qualcosa accade, nel senso qualcosa accade, perché comunque sono anche oltretutto anche laboratori integrati, quindi laboratori fatti intanto gestiti da me, ma questo diciamo è l'aspetto meno importante e meno rilevante, ma sono laboratori integrati perché prevedono, oltre alla messa in scena dei detenuti, in realtà prevedono una messa in scena di detenuti e studenti universitari, il che comporta una, come dire, un alleggerimento della vita detentiva enorme, perché naturalmente questi ragazzi attendono letteralmente il nostro, ma forse Salvatore mi potrà anche confermare, nel senso loro attendono il nostro arrivo lì perché è un divertimento, perché è un approfondimento, perché è un confronto diverso, quotidiano, reale, costante, con un mondo che quanto più lontano c'è da loro, che allora è negato, universitario. Certo, che allora una realtà che allora è negata, è lontana, anzi è resa ostile, e questi incontri servono, se non altro, a rompere la routine del carcere. Che esatto, serve a rompere la routine del carcere, Salvatore, serve a rendere quel posto di merda, scusatemi la parola, serve a renderlo un po' meno di merda, nel senso che, certo, sai, per 3 ore, 5 ore alla settimana, 6 ore alla settimana, e riescono ad evadere, parole insomma che assumono naturalmente dei indicati sinistri, in quel posto riescono a evadere con la fantasia, perché si divertono a mettere in scena, in scenare letteralmente dei personaggi che altrimenti sono, come dire, restano fermi soltanto sulla carta. Sì. Nel metterli in scena loro naturalmente si mettono in gioco, assumono anche delle relazioni tra di loro diverse, è inevitabile, nel senso che a un certo punto iniziano a parlare tra di loro, perché me l'hanno detto, mi è stato, come dire, raccontato, che tra di loro si raccontano le battute durante la settimana in attesa della prova successiva, no? In attesa dell'incontro, sì, successivo. E chiaramente capisci che in quel posto, capiamo tutti, lo capisco anche io, noi capiamo tutti che in quel posto naturalmente instaurare, inscenare delle relazioni diverse, reali, umane, divertenti tra di loro, in quel posto dove naturalmente stiamo parlando di, insomma, il carcere, no? Per cui naturalmente c'è un rapporto con gli assistenti, chiamiamoli così, con le guardie penitenziarie, loro invece si relazionano in maniera diversa, saltano, come dire, la gerarchia, ma non, come dire, vanno a rompere quelle dinamiche che sono proprie del carcere. In realtà questi laboratori si inseriscono proprio in questo discorso. Non so se mi sono spiegato. Quindi insomma vi invito naturalmente questa rappresentazione, andrà in scena l'8 giugno prossimo alle 4 di pomeriggio, siete tutti invitati, insomma il teatro si sta incredibilmente riempiendo, nel senso che Bibbia all'interno del carcere c'è un vero e proprio teatro, sono 300... e passa un posto, insomma 310-320 posti, ora non mi ricordo, ne manca ancora un centinaio, quindi siete tutti invitati, tutti e tutte invitati e invitate, e saremmo veramente contenti, come dire, di vedere il teatro pieno, ma intanto anche per vedere proprio, certo, veramente un'opera, anche un'opera teatrale, nel senso che poi in tutto ciò ha anche una dignità teatrale, cioè non è che uno va a vedere dei poveri disgraziati che mettono in scena a livello amatoriale uno spettacolino per intrattenere il pubblico che si annoia, eccetera eccetera, no, non c'è frega niente, è uno spettacolo a tutti gli effetti, e ti dirò di più, loro sono bravissimi, certo, ci sono un paio di napoletani che fanno i personaggi principali, naturalmente l'opera è stata riscritta su di loro, è stata riscritta con loro, anzi hanno scritto, hanno suggerito delle battute napoletano che sono, come dire, che la rendono esilarante, che la rendono vera, perché naturalmente nel momento in cui non parlano italiano, non parlano l'italiano perfetto, ma perché non gli appartiene, ma parlano quella che è la loro lingua, in questo caso è napoletano, ma cioè, ci sono romani, siciliani, arabi, eccetera, eccetera, beh, diventa diventa esplosivo, letteralmente. I due protagonisti sono napoletani, non peraltro perché insomma poi hanno anche una certa propensione al teatro, fortunatamente. Poi i detenuti, chi sta in carcere è costretto a imparare a recitare, perché dentro quel posto infame non si riesce a sopravvivere se non si recita. Infatti quello famoso dei fratelli italiani, Giulio Cesare, diventa un capolavoro, perché appunto i detenuti, ma poi il famoso gruppo teatrale di Volterra, che pure sì, esatto, perché infatti è un modo di sopravvivere, sì. Saper recitare. Comunque veramente sarà interessante. Dici però tutta la procedura burocratica. Allora, perché naturalmente sì, esatto, grazie dell'input. Naturalmente per entrare in carcere bisogna seguire una procedura e dovreste mandare una mail a Otello dire Bibbia chiocciola hotmail.com, mi raccomando, Otello con OTH, certo. Scritta in inglese, la mail l'ho fatta io e questo è. E, con tutti i dati anagrafici, quindi nome, cognome, data di nascita, residenza e eventualmente anche il numero di documento per sicurezza. E presentarsi al via Maglietti 70, quindi all'ingresso della casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, alle 3 del pomeriggio, perché l'ingresso è alle 3, ma insomma c'è tutta una procedura da seguire, tocca lasciare le borse fuori, naturalmente cellulari, insomma oggetti pericolosi, eccetera eccetera. E lo spettacolo avrà inizio invece alle ore 16, insomma, se tutto va bene, nel senso che tra le 16 e 16:30 al massimo, poi dobbiamo iniziare, perché poi alle 18 purtroppo insomma finisce il tempo libero in carcere, si rientra nelle celle. Esatto, il tempo libero in carcere è molto poco, molto, insomma, quindi diciamo massimo alle 16:30 dovremmo iniziare. E quando, una volta che insomma chi vorrà venire, una volta che manda una mail, una volta che è stato inserito all'interno della, diciamo, di questa lista da mandare poi al magistrato per farlo autorizzare e così via, gli sarà inviato una mail di ritorno di conferma, dicendo d'accordo, siete stati inseriti nella lista, presentatevi tot giorno e buona, come dire, buona visione, insomma, buono spettacolo. Perfetto, allora sicuramente andrà bene, sarà un'esperienza interessante. Io appunto poi casomai ne parliamo anche dopo, per vedere quali sono state proprio la loro espressione davanti al pubblico. Guarda, volentieri, quando vuoi, solo tu sai che mi fa parlare con te, è sempre un piacere parlare di queste esperienze con te, che è veramente molto molto interessante, quindi quando vuoi io sono disponibile. Molto volentieri, però. Allora guarda, posso dire un'ultima cosa? Ti preannuncio che luglio ne faremo un altro invece con i ragazzi della terza casa di Rebibbia, che invece è il carcere a custodia attenuata di Rebibbia, dove la realtà è un po' diversa, per cui avremo anche sicuramente un'altra occasione di parlare. Intanto questa è presente. Scusa, l'ultima cosa, la mail va inviata entro il 24 maggio. Oltre il 24 maggio non prenderemo più in considerazione i nomi, perché la direzione del carcere naturalmente ha voluto una data limite per poter chiedere poi le autorizzazioni, eccetera eccetera. Perfetto, allora buona organizzazione di questo spettacolo. Buona giornata a te, saluti ancora a tutti e in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao, salutare, ciao, ciao, ciao. I may not care or even know it's there, but then I'll have my fun. So till then, just press on. Don't lose your grip, man. Don't lose ambition. riprendiamo la trasmissione e dopo, come vedete, il carcere rappresenta proprio una fotografia, un riflesso della realtà che viviamo tutti e tutte, fuori, dentro, e questo fatto del fuori e dentro è un po', come dire, per usare in termini filosofici, è legato dialetticamente, nel senso che molte cose che stanno dentro avvengono anche fuori, anche se giuridicamente è coniugata in maniera diversa. Però dicevamo, ecco, da un aspetto positivo in qualche modo, come ci ha raccontato questo ragazzo così che organizza i detenuti per uno spettacolo teatrale, quindi un momento di piacere per chi sta dentro, andiamo ad un momento di tristezza, dura tristezza, di tragedia. I dati che riporta l'associazione Ristretti Orizzonti, che tiene molto il conteggio delle morti in carcere, cura proprio un dossier che si chiama Morire di carcere, che ci stanno tutti morti anno per anno, età per età, provenienza, tutto quanto, e ci dice che dal 2000 ad oggi, quindi in 15 anni e qualche mese, sono morti in carcere 2527 persone, di cui 900 suicidi. Allora, il dato è spaventoso, perché se voi fate in percentuale questa quantità di persone morte e dei 900 suicidati rispetto alla popolazione che in carcere c'è stata in questo periodo, considerate sugli diciamo 60, tra 60 e 70 mila l'anno, viene una percentuale altissima che, se fosse rapportata fuori, sarebbe un massacro, uno sterminio. E allora la domanda è: perché si muore di più in carcere? Domanda che non ha avuto risposta e forse non l'avrà mai. L'avrà soltanto quando il carcere verrà abolito, perché ci sono delle cose che non avranno, non possono avere risposta, oppure ne possiamo dare tante, anche queste dialetticamente legate l'una all'altra: perché in carcere si sta male, perché il carcere aumenta la sofferenza, perché il carcere toglie la vita, perché il carcere toglie il tempo di vita, perché il carcere devasta, annienta, annichilisce, per questo il carcere uccide. Considerate poi che la media dell'età delle persone presenti in carcere è molto più giovane di quella esterna. La media delle persone che stanno in carcere è intorno al di sotto dei 40 anni, mentre invece fuori è molto più alta. Non ci stanno le persone molto anziane in carcere, che invece fuori sono quelle che naturalmente muoiono più spesso. Ecco, quindi questo dato è spaventoso. Pensate, 900 suicidi in 15 anni è veramente un massacro, sembrano cifre da guerra, no? 2527 morti in 15 anni su una popolazione molto contenuta. E va bene, c'è poi in questo racconto, in questo dato orribile dei morti e dei suicidi in carcere, compare anche alcune vessazioni ancora più violente, forse più violente della morte. In che misura? Nella misura in cui alcuni detenuti vengono dichiarati infermi di mente, semplicemente perché manifestano quello che è la normalità in quell'ambiente devastante, una sorta di depressione. Abbiamo visto l'altra volta, no? Un uomo si è suicidato poche ore dopo essere entrato in carcere. Perché? Perché appena è entrato in carcere, questa è la cosiddetta la procedura, il protocollo. Appena entri in carcere, il direttore di carcere ti mette in alcuni reparti che si chiamano sono di appoggio, i reparti per studiare prima l'incartamento, eccetera, e poi decidere dove mandarti, in che reparto mandarti, con quali altri detenuti accompagnarti. Nel frattempo però vieni messo nelle celle di appoggio, queste celle d'appoggio, no? Nei reparti di transito, chiamati così, dove si transita appunto da quando si viene da fuori ai reparti, oppure quando si viene da un altro carcere, lo stesso, il passaggio nei reparti di transito, di appoggio. E appoggio, perché il linguaggio che usano le guardie è che è dove l'appoggiamo questo detenuto, quindi come se fosse un pacco, dove si appoggia. E questo la dice lunga, perché noi sappiamo che l'essere umano usa le parole con un certo senso. Se voi vedete tutti i termini che si usano, che usa la direzione del carcere, le guardie, la struttura, il ministero stesso nei confronti dei detenuti, usano dei termini che si usano normalmente per le cose. Dove appoggiamo questo? Dove lo spediamo? Dove lo trasferiamo? Come se fosse appunto un pacchetto, un pacco. E non è un caso, questo la dice tutto sul fatto che, al di là di quello che dice, come vedete anche prima, il ragazzo che organizza il teatro diceva la rieducazione, la Costituzione, però in realtà quando vai in carcere tu sei una cosa, un pacco. Insomma, diciamo che comunque oltre i suicidi, le morti, ci sta questo fatto che si sta sviluppando purtroppo, perché probabilmente in carcere si sta sempre peggio, ma non tanto per il sovraffollamento, che pure è un po' diminuito, o per il degrado delle celle, dei passeggi eccetera, ma proprio per l'assenza di libertà e soprattutto l'assenza di speranza, quella speranza che viene soltanto se il carcere ribolle, vive una sua vita che è non può che essere una vita di ribellione, rivolte, tentate evasioni, cioè aggregazioni di soggetti collettivi, di soggetti che in collettivo cercano di contrastare la violenza del carcere. Oggi questa cosa non c'è, manca o comunque è ridotta al minimo, anzi non c'è proprio, purtroppo bisogna dirlo, è amaro dirlo, ma è così. Nelle carceri non c'è una collettività che si organizza e che contrasta l'annientamento del carcere, e dunque la depressione coglie i soggetti più deboli, più delicati o forse più sensibili, non importa. Ecco, quando un detenuto viene colto da depressione, e che concretamente che significa? Significa che per esempio molti detenuti rifiutano l'aria, se ne stanno sempre in branda, non danno segni di vita, stanno in branda, mangiano poco, dormono molto e così via. Ecco, e viene classificato come persona depressa. A quel punto scatta il controllo psichiatrico, invece di dire ma forse dovremmo, che ne so, offrirgli una condizione di vita un po' più attiva, un po' più vivace, no, viene bollato come persona in depressione e quindi portato sotto il controllo dello psichiatra, che non fa altro che imbottirlo di psicofarmaci, oppure addirittura peggio, lo portano in reparti psichiatrici in cui le carceri sono piene. E qui questo ragazzo dice questa dalla sua lettera che ha mandato in giro, esce fuori questo passaggio, dice così: come posso guarire qui da questa piccola depressione? Qui mi tengono chiuso 24 ore su 24, senza andare all'aria. In cella non c'è niente, è tutta sporca, non c'è l'acqua calda, non c'è un phon per asciugarsi i capelli, poi non mi hanno dato le mie cose personali, per cui non posso lavarmi né cambiarmi, non mi danno un po' di detersivo per pulire la cella e non posso farmi una camomilla e nemmeno un caffè. Ripeto, non ho mai dato motivo di essere un ragazzo pericoloso, ed è stato da un carcere da Secondigliano, dove è stato messo in una sezione psichiatrica di un altro carcere, quindi lontanissima anche dalla famiglia, quindi questa devastazione, come vedete, continua. E allora veniamo a un altro aspetto, come vedete oscilliamo, ma è un divaga la realtà di una situazione devastante. Ci sono anche momenti così, se volete, in cui si rialza un po' il livello della vitalità dentro il carcere, ma alla gran parte poi c'è l'abbattimento. E quindi adesso c'è questa speranza, così, che molti sta nel cuore di molti detenuti e detenute, quello di dare il colloquio affettivo. Sapete, ne abbiamo parlato da tempo, perché da tempo ci sono varie proposte di legge anche per uniformare la condizione carceraria nelle carceri italiane a quella della gran parte dei paesi europei, che hanno quasi tutti inserito il colloquio affettivo. Ora, qui alcune agenzie di stampa dicono, e anche alcuni articoli di giornali, questo è sul Tempo, dicono che probabilmente entro l'estate i detenuti potrebbero vivere la propria sessualità, così viene detto. insomma, probabilmente viene spazi per la cura degli affetti, vengono chiamati, oppure love rooms all'inglese, dove potete trascorrere alcune ore o un'intera giornata senza telecamere, senza controllo, con la propria moglie, la propria compagna o il proprio compagno, eccetera, il proprio marito e così via. E questo è quello che si prospetta. Questo risultato, il costruire una il colloquio affettivo così chiamato, è anche uscito fuori dai famosi tavoli che il ministro Orlando ha messo in piedi, i 18 tavoli, lo stato generale dell'esecuzione della pena, per riformare un po' quello che si può riformare. Noi lo diciamo mille volte, ma non solo noi, la gran parte di quelli che hanno studiato e analizzato il carcere non è riformabile, però alcune piccole cose, nel senso che la devastazione rimane qualunque sia il regolamento e la conduzione della giornata detenuta, ma però alcune cose possono, come migliorare il vitto, migliorare diciamo, le aree di passeggio per fare un po' d'aria, aumentare l'ora d'aria, sono piccole cose che rallentano la devastazione. Questa cosa dovrebbe essere, appunto, l'hanno stabilita, l'hanno detta tutti coloro che hanno analizzato. C'era un tavolo di questi 18 che ha ragionato esclusivamente proprio su questo aspetto. È necessario oppure no dare la stanza degli affetti, i permessi affettivi. I dati che hanno tirato fuori sono chiarissimi: su 47 nazioni e stati dell'Unione Europea, 31 hanno già delle leggi per permettere ai detenuti e detenute di avere incontri affettivi durante la detenzione. Poi ovviamente è diversa la regolamentazione in ciascun paese. In alcuni paesi hanno soltanto una giornata, alcune ore, no? Una giornata, cioè, dalla mattina alla sera per svolgere questi colloqui effettivi, in alcuni casi tutto il weekend, quindi due giorni interi, in stanze attrezzate che appunto non hanno né telecamere né sguardi indiscreti. E questi sono i paesi. I paesi più che hanno più, diciamo, anzianità in questo programma sono Olanda, Danimarca, Germania, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e anche alcuni paesi dell'est. E vabbè, questo il garante nazionale per i diritti dei detenuti, Mauro Palma, da poco nominato, dice: il Consiglio di Stato disse già nel 2000 che andava, per fare questa cosa, per poter dare i colloqui affettivi, bisognava modificare il regolamento, che è una legge, legge del 2000, legge 230, che è l'ultimo regolamento, diciamo, effettivo, che poi è stato trasformato in legge, e quindi bisogna cambiare quella legge. Ma non è questo il problema, cambiare una legge si può fare. Purtroppo però, ecco, su questo terreno, su questo aspetto, su questo problema qui, c'è la feroce opposizione di un sindacato di polizia. Qui leggiamo ciò che dice un sindacato di polizia, ma probabilmente anche altri sindacati di polizia sono contrari. Questo è il SAP, di cui responsabile è Donato Capece, dice: faremo le barricate. Scusa, dice: ci metteremo di traverso per evitare che questo provvedimento diventi realtà. Siamo disposti a manifestare a oltranza, non vogliamo passare per guardoni di Stato. Che c'è, infatti, il problema è che loro non dovrebbero proprio guardare. Quindi dice, e poi la cosa più truce, dice: gli istituti penitenziari non sono postriboli, tra l'altro dimostrando che non conosce nemmeno il senso delle parole, perché queste stanze, diciamo, per i colloqui affettivi sono fatti da persone che sono legate da un affetto, non c'entra niente il postribolo, ma probabilmente, come vedete, le guardie penitenziarie hanno anche difficoltà nel conoscere il senso delle parole. E poi in questa intervista, che è fatta sempre sul giornale Il Tempo, da questo dirigente di questo sindacato autonomo dei secondini, dice: ma il carcere non è abbastanza duro, la pena non consiste solo nella privazione della libertà, ma anche in tutto quello che ne consegue. Dice: noi invece purtroppo dietro le sbarre li facciamo lavorare, li facciamo mangiare, bere e dormire e li curiamo perfino. Dice: quasi per molti diventerà un piacere venire in carcere piuttosto che stare fuori. Questo è il senso, dicono, delle guardie, questo perlomeno è quello che pensano. Ma se il Parlamento vuole approvare questa modifica al regolamento penitenziario, non dovrebbe farsi bloccare dai secondini. Allora, vediamo un'altra notizia brutta, ma questa si immaginava che sarebbe arrivata prima o poi. Dunque, se il carcere isola dalla realtà sociale, dalla vita di tutti gli altri e tutte le altre, in realtà non interrompe l'azione di Equitalia. Equitalia è quella sorta di come dire, di mostro moderno di riscossione dei debiti, e quindi Equitalia arriva anche in carcere. C'è stato un caso di un detenuto perché c'era un debito, cioè non blocca i debiti andare in carcere, perlomeno vengono a riscuotere lì, poi se non c'è niente si fermano in attesa che c'è qualcosa. Questo detenuto lavorava in carcere, ma visto che oggi il budget per i lavori in carcere è fortemente diminuito perché bisogna risparmiare, dice il governo, e dove si risparmia? Sanità, scuola e quelle poche attività per i detenuti, no? Ovviamente non per le armi, gli aerei, i militari, le grandi opere, no, si risparmia sulle necessità della povera gente. Vabbè, quindi hanno ridotto di molto il budget che permetteva ai detenuti di lavorare in carcere. Quindi questo faceva un lavoro di poche ore e prendeva qualche centinaio di euro al mese, ma proprio uno, mi pare 200 euro al mese. Bene, sono state bloccate questi 200 al mese, le prende Equitalia perché questo c'era un debito pregresso e quindi lavorerà gratis. E questo misero salario, si chiama mercede, il salario che si riceve per il lavoro in carcere, questa misera mercede viene sequestrata da Equitalia. Vedete quanto la giustizia, perché il governo l'ha detto mille volte, no? Noi dobbiamo combattere l'evasione fiscale, appunto, e questo è questa è l'evasione fiscale che vogliono combattere. No, non c'è commento perché sennò uno va nel turpiloquio e non mi piace. Quindi andiamo avanti. Invece c'è un'altra storia, questa qui molto brutta, che ormai gira da parecchio tempo. Allora, sapete, qualcuno di voi l'ha letto, se seguono le questioni del carcere, c'è questo detenuto Rashid Assarag, un detenuto marocchino però italiano da più di 20 anni, 30 anni sta in Italia, era andato in carcere per un piccolo spaccio, credo, così. E lì è cominciata la sua tragedia, perché evidentemente non ha come si dice, non abbozzava di fronte alle così all'arroganza delle guardie, è cominciato questo via botte, picchie, isolamento, botte, isolamento, cioè lui non abbassava la testa e continuato questo finché lui con l'aiuto della sua compagna hanno escogitato questo sistema, si è fatto entrare in carcere un piccolissimo registratore e ha cominciato a registrare parlando con le guardie, stuzzicandole, ovviamente loro non sapevano che c'era il registratore, stuzzicandole, ha fatto dire tante cose, cioè come a dire ma voi ci menate, sì, noi spacchiamo la testa, noi non siamo educatori, noi siamo, dobbiamo piegarvi in due, dobbiamo insomma, tutte queste belle frasi registrate su questo registratore. Poi questa registrazione è stata mandata alla procura perché perlomeno, visto che c'era anche una confessione di percosse, violenze, pestaggi effettuati dalle guardie, la procura avrebbe dovuto, tutti speravano, pensavano, c'è stato anche un articolo sull'Espresso, molti già, che operasse contro queste cosiddette mele marce, che poi si è capito che non sono mele marce quelli che picchiano in carcere, ma non perché sono tutti picchiatori, ma perché il sistema della sorveglianza carceraria, cioè fatta da secondini, ispettori, assistenti, direttori, eccetera, fa blocco con quelli che picchiano, non vengono isolati, vengono tutelati dal tutto il, quindi c'è questa sorta di omertà, di difesa, c'è proprio uno spirito di corpo come in quasi tutte le strutture militari, poi non è una novità, vale anche per la polizia, per i carabinieri, lo sapete, non esce mai fuori, cioè quelli del corpo difendono a spada tratta, anche con testimonianze false, e l'operato dei propri colleghi. Questo succede ovviamente anche tra i secondini e quindi questa cosa non riesce ad andare avanti. Allora, si è dato un luogo a procedere, e però è successo che 5 studenti che iscritti al corso di clinica legale, e 5 ragazzi che hanno, per fare appunto una tesi, hanno preso questa storia e hanno preso tutto il fascicolo di Rashid Assarag e ci fanno un'analisi sopra giuridica e quindi mettono di nuovo in luce tutte queste cose qui. L'hanno analizzato molto bene, hanno analizzato le registrazioni, incrociato i dati, le trascrizioni, le testimonianze, stanno facendo un ottimo lavoro. E quindi verrà fuori sì una tesi per questi ragazzi, ma soprattutto un volume che dimostra come non solo in carcere succedono certe cose, ma come la cosiddetta giustizia, quella con la G maiuscola, in realtà fa di tutto per coprire queste vessazioni, perché poi il carcere appunto è quella cosa lì, cioè serve a imporre sofferenza, devastazione, annichilimento, azzeramento della personalità, perdita della propria identità. E in effetti, quindi questo lavoro è interessante, speriamo che non vengano spaventati né bloccati, ma insomma vedremo quando si andrà alle stampe questo lavoro, avremo un bel spaccato della realtà italiana. Allora, c'è un'altra notizia che può essere importante. Dunque, ricordate, è sul manifesto di oggi, quindi chi ha il manifesto la può leggere anche in diretta lì, di Elia De Caro. La consulta, il titolo è questo: la consulta cancella le sanzioni amministrative per le droghe. Che cosa è successo? Sapete, abbiamo dato spazio molto quando due anni fa, nel 2014, la Corte Costituzionale, quindi la consulta, ha cancellato l'intero articolo 75 bis del DPR, decreto del Presidente della Repubblica, al 309 del 90. La legge Fini-Giovannardi, quella deprecata, che stabiliva l'inasprimento di sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti, oltre che con aumentare le condanne per quelli detti allo spaccio, ma anche per i consumatori. La Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il decreto Fini-Giovannardi, questo decreto del Presidente della Repubblica. E poi adesso, a distanza di due anni, ha dovuto, essendo incostituzionale tutto l'articolo 75 bis, ha dovuto togliere anche, quindi ha rivisto dentro questo annullamento, questa incostituzionalità, e togliendo anche le sanzioni amministrative previste da questa legge Fini-Giovannardi, che erano per i consumatori, attenzione, per i consumatori, non parliamo di spacciatori. E quindi avendo cancellato l'articolo 75 bis del decreto Fini-Giovannardi, rientra quello del precedente legge contro la droga, la legge Iervolino-Vassalli, di cui vale il 73, l'articolo 73. La multa PAS va da 5.000 a 77.000 euro, laddove era da 26 a 260.000 euro, quindi viene fortemente ridotta. L'inasprimento delle sanzioni amministrative per l'uso, per il consumo di sostanze stupefacenti. Questo è importante perché, anche se era stato dichiarato incostituzionale tutta la legge, quindi Fini-Giovannardi, quella che parlava dell'inasprimento di pene, però in realtà queste cose erano rimaste perché si trattava di poi scendere nel dettaglio e individuare le sanzioni proprio una per una che andavano fatte. Quindi in più la Fini-Giovannardi dava anche una sorta di controllo amministrativo. Queste persone, i consumatori, venivano dichiarate persone pericolose socialmente e quindi a questi veniva applicato l'obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana, ma spesso anche tutti i giorni, alla questura, al commissariato, alla questura della propria residenza per firmare, e di rientrare presso la propria abitazione entro una certa ora, quindi non più tardi di una certa sera, e non uscire prima di un'altra ora, quindi dei divieti pesantissimi, del tutto amministrativi, perché la figura del consumatore veniva definita come pericoloso socialmente, una figura pericolosa socialmente. Questa cosa adesso è stata abrogata perché appunto l'incostituzionalità della legge Fini-Giovannardi, anche perché non considera che questa privazione di libertà in questo senso non può essere data per via amministrativa. Però qui viene in campo un altro problema che diciamo tra un attimo. Allora, il problema che dicevamo è che questo discorso della pericolosità sociale in Italia è sempre rimasto ed è stato fa parte del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvate nel 31 in contemporanea dell'approvazione del codice penale Rocco e sono rimaste, anche se come vedete poi in questo caso della legge Fini-Giovanardi e in altri casi, comunque in quasi tutti i casi hanno una come dire hanno dei contrasti con la Costituzione perché appunto stabiliscono che per via amministrativa è possibile togliere la libertà delle persone e questo fatto non è diciamo non è accettabile insomma tuttavia però succede e si sta diffondendo questa piaga, cioè il problema che stiamo vedendo in questi giorni in Francia per esempio, che la Corte utilizzando i decreti dello stato d'emergenza proclamati dal governo francese subito dopo gli attentati di Parigi, quindi all'interno di una legislazione antiterrorismo che individuava lì per la prima volta la figura del pericoloso socialmente e quindi a cui applicare non delle sanzioni carcerarie ma delle difficoltà di movimento, per esempio non poter andare in quel comune oppure non poter partecipare a certe iniziative, manifestazioni eccetera. Lì la cosa è controversa e difatti il divieto stabilito dalla questura per alcuni attivisti di questa Nuit Debout che sta succedendo in Francia, questa grossa mobilitazione contro la legge la loi travail, quindi la legge questa sorta di Job Act alla francese, ebbene sta avendo appunto una grossa repressione da parte dello Stato e utilizzano queste norme, queste situazioni però in realtà alcuni di questi militanti a cui è stato impedito di partecipare alle manifestazioni nell'orario di quelle manifestazioni è chiaro che una sorta di DASPO, no? Che come abbiamo visto in Italia si applica il DASPO di piazza che si comincia ad applicare molto, lì è un po' difficile perché sono leggi nuove, leggi che sono state inserite nella legislazione antiterrorismo, quindi cozzano contro tutto l'apparato legislativo francese e quindi vabbè, la questura li dà, però in questo caso sono stati tolti subito con ricorso fatto da questi manifestanti. In Italia invece no, perché in Italia c'è questo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che sono leggi esistenti, certo cozzano contro la Costituzione però sono applicate, vengono applicate e poi qualche caso però bisogna andare presso la Corte Costituzionale per far dichiarare l'incostituzionalità di una legge, quindi sono tempi lunghissimi, farraginosi e difficili e comunque non è sicuro. In questo caso come la Fini-Giovanardi ci si è riusciti ma non è detto che riesca dappertutto. Comunque sia, il problema è che queste misure interdittive invalidanti che sono quelle che non prevedono l'esistenza l'arresto in carcere ma impediscono però la libertà di movimento, appunto non andare in quel comune, non frequentare quel gruppo di persone, non andare in questi orari, in questi posti eccetera eccetera, tutto questo meccanismo qui si sta applicando in Italia, questo in alternativa alla denuncia che ha tempi lunghi, che prevede il carcere, che comunque va sotto l'autorità giudiziaria, quindi è tutt'altra cosa. Le misure amministrative interdittive sono applicate direttamente dalla polizia, dalla questura e quindi hanno sono più veloci, più rapide. Questo è il meccanismo che si sta attuando. Questo è un po' il quadro che facciamo già l'altra volta e che sta dentro quel discorso che vede il passaggio da un certo tipo di repressione a un altro, cioè l'utilizzo sempre più di queste misure interdittive invalidanti, cioè che impediscono di fare attività politica invece che la classica denuncia che prevede poi tutto il che passa sotto la magistratura, quindi prevede l'indagine, l'inchiesta, poi il giudice per l'udienza preliminare, così via, poi il primo grado, secondo grado, Cassazione, tutto questo meccanismo che ha delle lungaggini in corso, che per quanto riguarda la repressione dei movimenti è molto meno efficace delle azioni amministrative che operano subito. Vedete il caso in Israele, per esempio, contro l'intifada, contro le mobilitazioni dei ragazzi palestinesi, lo Stato, la polizia israeliana usa molto di più le misure amministrative, perché sono quelle che operano subito. La misura amministrativa opera un'ora dopo essere stata emessa, immediatamente, e quindi sono più efficaci. Questo è il quadro che probabilmente... Il fatto che la stessa Francia, che ha tutto un apparato giudiziario e giuridico completamente diverso dal nostro, quindi più come dire, meno disposta a queste sanzioni amministrative, a questi controlli amministrativi, eppure si sta orientando su questo terreno. Noi ci siamo già dentro, tutti, con tutti i piedi, la testa, eccetera. E per questo è importante cominciare a organizzarci. Quello che abbiamo detto l'altra volta, il problema della abbandono del carcere è probabile, della diminuzione delle persone in carcere è un fatto che si sta in questa fase, per tanti motivi che abbiamo già detto, ne diremo altri, e mentre invece aumenteranno a dismisura queste misure interdittive che impediscono alle persone di fare quello che facevano prima, in questo caso il conflitto sociale, e quindi sono più efficaci per loro, per quelli che vogliono mantenere il controllo sul conflitto sociale. Attrezzarsi a questa cosa significa costruire nei territori degli organismi auto-organizzati per contrastare questa tendenza. Altro non c'è da fare. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Segue la trasmissione sulla mobilità a Roma, l'ingorgo, che tra qualche minuto andrà in onda. Noi ci salutiamo con l'augurio di buona libertà a tutti e tutti, e ci sentiamo mercoledì prossimo.